Pochi sanno che il pensiero della New Age compare nell'arte, nella musica, negli affari, nell'istruzione, nella premura per l'ambiente, nei programmi per la salute, nelle questioni sociali. Sempre più persone credono che tutti abbiamo perso il nostro cammino e per questo dobbiamo essere aiutati nel viaggio alla scoperta del Dio interiore. Perciò si rivolgono a spiriti guida disposti a parlare tramite persone o direttamente mediante l'uso di speciali tecniche di meditazione. Gli esponenti del movimento New Age si propongono come le persone adatte a questa ricerca, rigettando i valori giudeo-cristiani in favore di filosofie e religioni orientali. Da un certo punto di vista nulla di particolare, perché da sempre delle correnti religiose e filosofie hanno imitato e imitano alcuni principi cristiani. Ma il fatto particolare è che alcune chiese cosiddette cristiane hanno cominciato ad integrare i loro culti d'adorazione e di preghiera a Dio con pratiche yoga, organizzando classi per insegnare lo yoga e con preghiere guidate da religiosi che sono anche istruttori riconosciuti di tale filosofia. Proprio perché il pensiero della New Age non compare solo nell'arte o nella musica, negli affari o nell'istruzione, ma anche nelle abitudini cristiane, è saggio e opportuno considerarne il pensiero alla luce della parola di Dio. È evidente che non sia possibile esaminare in poche parole un movimento come quello in questione, ma è comunque utile fare un breve confronto tra la New Age e il cristianesimo. Per fare questo ne metteremo in evidenza solo 7 aspetti, e cioè 1. La rivelazione, 2. Dio, 3. La creazione, 4. L'uomo, 5. Gesù Cristo, 6. Il peccato, 7. La salvezza. Prima di entrare nel merito del confronto tra il movimento della New Age e il cristianesimo, è bene specificare che questa corrente non è una religione, perché non concepisce una divinità come persona che si relaziona con gli uomini, e neppure è una setta, perché se una setta è un insieme di persone aventi tutte uguali comportamenti, nella New Age non è così. Il movimento della New Age ha la caratteristica di offrire un menù variegato in modo che chi vuole fuggire dalla razionalità può occuparsi di divinazione, di parapsicologia, di discipline occulte. Può credere alla reincarnazione e aderire a filosofie orientali. Tutto è permesso fuorché seguire la verità. 1. La New Age e la rivelazione. Secondo il movimento New Age, che tradotto significa nuova era, noi possiamo diventare misticamente coscienti della divinità di tutte le cose e possiamo sperimentare un'unione con la forza divina della vita. Per fare questo, il movimento mette a disposizione quelle che loro chiamano guide spirituali, portatori di luce o maestri interiori. Già questo primo aspetto rende il movimento New Age sospetto, perché pur trattandosi di un movimento filosofico, esso si propone come la luce per la comprensione della verità e del soprannaturale. Ora, poiché esistono tanti movimenti filosofici opposti e contrari tra loro, per forza di cose una sola filosofia, casomai, può essere vera. Cosa mi garantisce il movimento della nuova era che non mi sia anche garantito da altre filosofie? Che differenza passa tra il movimento New Age e la filosofia dei raeliani, i quali sostengono di avere la missione di rivelare all'intera umanità la verità sulle nostre origini e di costruire un'ambasciata ufficiale per accogliere i nostri creatori, cioè gli Elohim provenienti dallo spazio? Qualcuno potrebbe obiettare che anche il cristianesimo come religione sostiene di predicare la verità, con la differenza però che i cristiani non affermano di essere o di possedere la verità, ma testimoniano che è la verità è una persona, Gesù Cristo. Perciò, mentre i cristiani riconoscono con molta umiltà e umanità di non conoscere la verità e neppure il soprannaturale e i seguaci del sistema di pensiero New Age, hanno la presunzione di essere guide dei ciechi. Ma di questi ormai ne abbiamo fin troppi al punto di esserne nauseati. 2. La New Age e Dio. Secondo il sistema filosofico New Age, Dio è una forza evolutiva e creativa all'interno dell'universo, ma impersonale e amorale. Questo concetto di Dio, cioè di un essere supremo, rende quella di New Age una filosofia più che una religione. Infatti il termine religione deriva da un termine latino che ha il significato di legare con riferimento al valore vincolante degli obblighi e dei divieti relativi a ciò che si ritiene sacro. Proprio perché non vi è nessun essere morale trascendente che abbia un rapporto con l'uomo, i seguaci di New Age non hanno una morale comune alla quale sottostare, per questo possono fare quello che vogliono. Dato però che l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio, la New Age, non potendo soddisfare a lungo l'uomo con una dieta ininterrotta di egoismo e di ateismo, inculca nei suoi seguaci l'idea che dentro all'uomo ci sono universi mistici da seguire, potenzialità spirituali infinite e trascendenza tale da poter dire che l'uomo è veramente Dio. Ma di queste pazzie ne abbiamo già avute abbastanza sia nelle religioni giapponesi sia nella storia di Roma. 3. New Age e la creazione. Secondo il sistema filosofico New Age, l'universo è sempre esistito come la manifestazione materiale del Dio forza creativa. Questa idea filosofica ha dell'assurdo perché per poter sostenere tale tesi è indispensabile essere eterni. Solo chi è sempre esistito può dire che l'universo è sempre esistito, ma chi è venuto all'esistenza solo per un infinitesimo periodo non può assolutamente sostenere l'ipotesi secondo la quale l'universo è sempre esistito come la manifestazione materiale del Dio barra forza creativa. Inoltre, una tesi sull'universo come quella di New Age è puro panteismo, cioè quella filosofia asserente che l'universo e Dio sono tutt'uno. In questo modo, New Age, cioè nuova era, non è affatto nuova. Il cristianesimo invece afferma che Dio ha creato l'universo dal nulla e che esso è distinto dal Dio creatore. 4. New Age e l'uomo. Per il sistema filosofico New Age, l'uomo si sta evolvendo verso forme più alte di umanità, che porteranno a un salto finale di deificazione. Testi New Age affermano candidamente che, trasformato in superterrestre, l'Homo sapiens diventerà una razza di dei e reggerà l'universo, si unirà con esso, e insieme a esso diventerà uno. Come per ogni menzogna, anche New Age fonda i suoi ragionamenti su di una verità. È vero che gli esseri umani hanno bisogno di essere trasformati personalmente e devono raggiungere un potenziale più alto, ma, secondo le dichiarazioni di Gesù Cristo la verità, questo obiettivo è diventare una nuova creatura mediante una nuova nascita, realizzabile per mezzo di una trasformazione operata dallo Spirito, quello santo. Gesù lo disse molto chiaramente. In verità ti dico che se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E ancora in verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. La differenza tra la trasformazione dell'uomo secondo l'opinione esposta da New Age e quella operata da Dio è la stessa che esiste tra tutti i sistemi filosofici o religiosi e quello divino. I primi ritengono che il compito di migliorare sta nelle capacità umane, mentre nel piano divino la trasformazione è un'opera esclusiva del Dio Trino. Il punto è sempre quello. Che si parli di fisica, come per l'evoluzione, che si parli di filosofia, come quella umanistica, che si parli di religione, come quella cattolica romana, è sempre senza l'opera esclusiva del Dio Trino che si risolvono i problemi. Mentre la fede cristiana riconosce che ogni cosa proviene, sussiste ed esisterà per l'eternità solo mediante Cristo. Di favole come la New Age ormai ne abbiamo abbastanza. 5. New Age e Gesù Cristo. Per il sistema filosofico New Age, Gesù Cristo è un impareggiabile maestro spirituale consapevole della sua deità e consacrato ad aiutare ognuno di noi a diventare consapevole della propria. Anche il movimento New Age commette l'errore di tutti gli increduli, cioè dare un volto a Gesù che non è il suo. Nessuno di noi ha il diritto di ritenere una persona diversamente da quello che essa dice di essere. Perciò ritenere Gesù un maestro spirituale come fecero Gandhi e tanti altri esponenti religiosi è offendere la persona di Cristo. Gesù ha sempre detto di essere Dio e non qualcosa di meno e di fronte a tale affermazione o si crede o la si nega. Ridurre Gesù Cristo ad un maestro spirituale qualsiasi, o persino al più grande che sia mai esistito, significa spogliarlo della sua divinità e renderlo un uomo come tutti gli altri uomini. Ma di errori su Gesù ce ne sono abbastanza per poterne accettare ancora uno. 6. New Age e il peccato. Per il sistema filosofico New Age, il peccato è il mancato riconoscimento della propria deità. Sia il bene, sia il male offrono un contributo all'evoluzione o all'ampliamento della coscienza, la forza della vita. Questo giudizio di New Age in merito al peccato è l'inevitabile conclusione della posizione dei suoi esponenti e dell'opinione che hanno di Dio, perché se Dio non è personale, né ha un rapporto con l'uomo, è ovvio che il peccato, come trasgressione della legge di Dio, non esista. La filosofia New Age è proprio un'inutile e inservibile opinione che vale meno della spazzatura, perché i popoli possono migliorare solo se riconoscono i loro errori o peccati, errori definiti tali dal Dio Trino. 7. New Age e la salvezza. Per il sistema filosofico New Age, la salvezza è liberazione dalla paura e dalla colpa attraverso la coscienza della propria deità. Questa è la campana forte di New Age, ma una campana che stona clamorosamente perché dove presenta una definizione di Dio come forza impersonale. Il cristianesimo offre un Dio Trino personale. Laddove si perde nel soggettivismo, il cristianesimo si appella alla verità. Laddove presenta un inciampo sul mondo materiale, il cristianesimo spiega perché il mondo è altamente organizzato, dove New Age cade in contraddizione per la questione del male. Il cristianesimo presenta argomentazioni solide e coerenti, e dove parla di una salvezza inesistente e impossibile da realizzare, Cristo Gesù si presenta come... Il cristianesimo non è una filosofia che aiuta a star meglio con delle chimere, ma è una realtà vivibile che eleva l'uomo al rango di figlio di Dio con una natura divina, lo rende libero di vivere dignitosamente, di amare anche i nemici, di avere la certezza di un futuro glorioso. Chi può offrire di più? Non certamente la New Age, una inutile spazzatura per la società e soprattutto per l'anima. Gennaio 2007. Ellero,